a quei alte ovunque, a quei alte signore, dalla collina di latta ho sentito rombare, il cielo è color piombo, le campane a suonare, a quei alte ovunque signore. Sono corso in città, il fango è nelle scarpe, Gesù Cristo galleggia, le piante sono morte, il mio amore è partito, il sale sulle scale, a quei alte ovunque signore. Da una casa abbandonata ho sentito cantare, qualcuno sa il tuo nome, una vecchia canzone. C'è uno sposo che aspetta, un viso appare e riappare, a quei alte ovunque signore. Casa era buia, così ho preso la strada e ho aspettato nel freddo che scendesse la sera. C'è un ammasso di ferro, un fuoco per scaldare, a quei alte ovunque signore. Da una casa abbandonata ho sentito cantare, qualcuno sa il tuo nome, una vecchia canzone. C'è uno sposo che aspetta, un volto appare e riappare, a quei alte ovunque signore, a quei alte signore.